Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Elogio della leggerezza. Non ho tempo, non ho spazio, mi sento oppressa. Non ho tempo, soprattutto. Non ho mai tempo per fare le cose che devo fare. Non ho tempo per ascoltare le persone che devo ascoltare, per dire le cose che devo dire, per dedicare tempo appunto alle mie cose, a chi mi è caro nella vita vera, quella che inizia alle 8 di sera e termina alle 8 di mattina. Non ho spazio. Non ho spazio per me, per le mie cose, per i miei libri, per la mia famiglia, per le mie passioni. Spesso neanche per i miei pensieri. Non ho spazio in casa. Non ho spazi a sufficienza. Allora butto via tutto. Quanto ho di utile e superfluo, caro, banale e prezioso, vecchio e nuovo, piccolo e grande. Mi sento pesante. Oggi avevo una possibilità di scegliere. Continuare a stare sulle notizie, continuare a aggiornarvi cosa sta accadendo, cosa si sta dicendo sul terrorismo islamico, sulla paura nelle città, sulle indagini, via dicendo, ma questo è un compito doveroso che continueranno a fare i colleghi del giornale. Oggi volevo fare un momento di pausa, volevo dedicare la puntata al bisogno di leggerezza, perché ci sto riflettendo: qual è il vero frutto della nostra civilizzazione? Cos'è che possiamo portare e contrapporre rispetto alla barbarie, all'oscurantismo, alla violenza cieca? Oggi vedo la copertina di un settimanale nera, La notte dell'Europa, perché rischiamo di perdere la guerra al terrorismo. E dentro, già immagino, il giornale ancora in cellofanato, probabilmente lo resterà così fino al martedì dopo Pasqua, che ci sia un bisogno di contrapporre valori e non valori, riabbarbicarsi sulle proprie radici, sui propri valori, insomma sempre qualcosa di molto pesante, qualcosa di molto difficile, qualcosa anche di molto vecchio, di molto ammuffito, di molto stantio. No, io penso che in realtà la chiave della contemporaneità, il vero sorriso della civilizzazione, è dato proprio dalla leggerezza. La leggerezza che troviamo nei nostri strumenti informatici, che hanno upgrade continuo. Mi sveglio la mattina e mi rendo conto che molte delle applicazioni del mio telefono si sono automaticamente aggiornate da sole, senza nessuna fatica, senza nessuna biura, senza nessuna guerra religiosa, senza nessun bagno di sangue. Improvvisamente sono lì, sono sovrascritte. Qualcuno a distanza, in maniera impalpabile, senza che nessuno ci mettesse mani, le aggiornate sono nuove, sono come dei bambini appena nati, già pronti ad essere più efficienti. Sono evolute nel corso di una notte senza far male a nessuno e senza rubare spazio a nessuno. Beh, in nome di questa sorta di metafora che ci siamo costruiti e che abbiamo tra le mani ogni giorno, dalla quale però non impariamo nulla, oggi dedico la puntata al bisogno di leggerezza. Come si fa ad essere leggeri? Come si fa ad elevarsi? Come si fa ad uscire comunque dal sonno e dal buio della ragione? Semplicemente buttando zavorra. Qual è la zavorra che questa mattina voi vorreste buttare, da cui vorreste alleggerirvi? Era tradizione nelle mie contrade fare le pulizie di Pasqua. A Pasqua si iniziava una settimana prima, 10 giorni prima, si puliva tutto, si rovesciava casa. Si metteva mano a quei covi di sporcizia e di appesantimento del benessere che normalmente rimangono nascosti e celati. Si vuotavano gli sgabuzzini, le cantine, le dispense, i pacchi, i barattoli, gli armadi, i cassetti, e ci sentiva più leggeri per dare un senso alla festa di Pasqua. Beh, oggi, visto che abbiamo ben poco forse da festeggiare, diamo un senso alla giornata. Cosa butterete via? Di cosa volete liberarvi? Chi darà la zavorra più significativa avrà naturalmente un libro infame, quindi uno spazio vuoto sarà riempito da un inutile libro infame del quale potrete liberarvi tranquillamente anche voi il martedì dopo Pasqua. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Io vivo nella lotta costante di fare entrare cose in casa e cercare di fare spazio per appunto farle entrare. Sentivo che voleva buttare via il Lego. Io ho un figlio di 2 anni e mezzo e ho la cantina stivata dei miei giochi, quindi il mio Lego è stivato in cantina e al momento giusto uscirà. I miei figli mi definiscono una reliquiaria, nel senso che non butto via quasi nulla, me la porto dietro nel tempo, ma addirittura ho una stanza in cui manca anche la luce. C'è uno stand e sopra questo stand addirittura c'è un lenzuolo che copre tutti questi abiti che appartenevano alla mia vita di circa 20-25 anni fa. 800240024, oggi è la giornata della leggerezza, adonta del senso di oppressione reale, concreto, motivato, giustificatissimo che ci sta attraversando. Dico, oggi noi ci alleggeriamo, per alleggerirci buttiamo zavorra. Quindi chiamate all'800240024 e datemi alcune delle zavorre che volete mollare. Mollando zavorra si mollano anche gli ormeggi, e ci si alza e si è più leggeri. La leggerezza, la capacità di non avere ideologie che ci opprimano, di non avere oneri, di non avere impegni, di non avere obblighi familiari, obblighi affettivi, tutte cose fantastiche, meravigliose, quando ci danno piacere, diventano delle prigioni orribili, diventano delle zavorre insopportabili, quando diventano un peso, quando non essere sopportate. Vorrei dare leggerezza anche all'ascoltatore, il cui telefono inizia per 331, che mi scrive: è l'ennesimo argomento stupido che potevi inventarti, Nicoletti. Stavolta però la radio la spengo per davvero. Sei veramente penoso. Ora, questo signore lo trovo veramente oppresso. Primo, scrivo un SMS, che è una fatica immensa scrivere oggi un SMS, totalmente inutile, per dirmi che sono penoso. Quindi deve darmi un segnale comunque di cui aspetterà la risposta. Quindi dice di spegnere la radio, ma in realtà tenta disperatamente, ma nemmeno tanto disperatamente, perché io l'ho accontentato, di creare un contatto, una sorta di Stargate tra chi sente e ascolta la radio e lui che sta lì, probabilmente oppresso da mille pensieri, da mille obblighi, da mille oneri, da mille obblighi di tipo ideologico, tanto che si sente in obbligo di dire a un signore che fa radio, che è veramente penoso, non ha nemmeno sentito, nemmeno accennato, soltanto l'ambito, l'argomento, per lui è già penoso. Signore che mi ha scritto che è veramente penoso, fai uno sforzo, telefona all'800240024 e dacci il fardello che tanto ti opprime. Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Vediamo se lei, con lei sono riuscito a spiegarmi abbastanza. Sì, quello di cui vorrei liberarmi è l'ansia ossessiva della perfezione, tra l'altro richiesta anche se implicitamente, prestazione familiare, prestazione professionale, prestazione sociale, una performance continua che ti vuole sul pezzo, rispondere a 50 telefonate anche in orario in cui tu vorresti stare a casa in mutande ad ascoltare la radio, a guardare la TV, a leggere un libro, e molte volte siamo costretti a esercitare questo nostro ruolo permanente per dover stare a galla. Quindi lei vorrebbe liberarsi dell'obbligo di essere performativi. Facciamo un elenco di priorità. Prima il lavoro, mi sembra che lei ha un lavoro che necessariamente l'obbliga a dare reperibilità totale. Il lavoro ti mette di fronte alla contrazione del tuo tempo libero a disposizione, perché queste sono le nostre categorie. Quindi tu allora devi riempire il tempo libero che ti resta con l'hobby, che può essere la musica, può essere l'attività fisica. Quindi deve programmare anche il tempo libero. Deve programmare, è una cosa terribile. L'ansia di dover riempire in pieno il tempo libero per riscattare quello rubato dal lavoro. Ma non le viene anche lei quell'ansia, quell'ansietta terribile che lei sa che metta caso a una sera a settimana in cui può permettersi di uscire 3 ore o fare qualcosa 3 ore? Sì. E vorrebbe che tutti fossero a disposizione, che il mondo in quel momento le offrisse il massimo. In realtà gli altri hanno dei tempi diversi, sono sfalsati rispetto alle sue esigenze. Sì, è esattamente questo, e credo che sia strettamente legato al nostro modo di vivere, questo fardello del quale non ci possiamo disfare perché insomma siamo... Ecco, questo probabilmente è uno dei cosiddetti valori dell'Occidente contemporaneo, del quale ci vorremmo probabilmente liberare, ma non è che noi siamo luddisti al punto tale che vorremmo ritornare a una sorta di civiltà arcaica. Semplicemente dateci la maniera di toglierci l'ansia. Io premio Pasquale da Reggio Calabria con un libro infame, glielo do subito. Ecco, un bel libretto qua. Basta studiare, le do, basta studiare. Due professori che hanno un metodo per uscire dall'ansia dei compiti, insufficienze, debiti, aduso genitori e studenti. Sono Lorenzo Sanna e Marcello Bramati, hanno fatto un libro per la Sperling e Kupfer. Basta studiare. Questo può essere l'inizio della sua filosofia applicato anche alle scuole. Grazie. Gavino. Grazie mille, a tutti. Gavino da Carbonia. Eccomi qua. Mi trovo a Carbonia in questo momento quasi. Il mio problema, cerco di spiegarvelo, è che io ero magro, sono ingrassato moltissimo. Normalmente facevo un trasloco ogni 2-3 anni e smaltivo così i miei vecchi vestiti. Poi sono rimasto 12 anni a Venezia. Nel frattempo ho imparato a pescare, cosa che mi riempie la vita, ho 59 anni, sono pensionato. Eh sì, però la pesca non è che la snellisce, anzi, la appesantisce. No, ma io sono sempre più grasso, ma il problema non è quello, non è il peso del corpo, è che non sono più riuscito a smaltire i vestiti, che erano tutti bei vestiti, a un certo punto fatti anche dal salto, perché poi essendo grasso non trovavo la taglia. Ecco, E l'attrezzatura da pesca, quella che passa di moda ogni 3 mesi, nessuno me la viene a prendere. E io ho sempre più roba, più polvere in casa. Sai cosa ho fatto? Ho lasciato la casa e mi sono trasferito. Ho lasciato tutto il peso, tutta quella zavorra, tranne pochi vestiti, e mi sono trasferito nel sud. Ci sono proprio a Carbonia, ma insomma in zona dove si pesca bene e dove soprattutto ho una casa vuota, piccola ma completamente vuota. Ah, quindi lei, Gavino, mi faccia capire, invece che vuotare casa come verrebbe distinto, ha chiuso casa e l'ha lasciata lì, il paccone, sì. La grande pattumiera del sovrappiù l'ha lasciato lì. Sì, l'ho lasciata lì. E la casa sta lì. Ma che ne farà al mondo dei suoi begli abitucci sottotaglia, delle sue canne da pesca passate di moda? L'ha lasciata lì? Sì, sono poi neanche tanto passate di moda. È che i pescatori sono peggio delle donne con le scarpe, capito? Ma dopo 3 mesi esce qualcosa di nuovo, il vecchio, quello che considera. Tutto è obsoleto molto velocemente. Lei pensi che andava a pescare, tagliava una canna volta per volta col filo di nylon e a volte nemmeno gli ami avevamo, li costruivamo con gli spilli della mamma e non servivano a niente. Se la interrompo, ma c'era molto spese. No, mi divertivo un sacco però, sì. Certo, mi diverto. Vabbè, Gavino, mi sembra chiaro. Gavino è molto ha dato un'idea. Io questa mattina, perché mi è venuto in mente questa trasmissione, mi sono accorto che ho un intero cassetto pieno di camicie che non metto più da almeno 4 anni. Tutte bellissime, ma non lo so, sono fuori moda, non mi piacciono, erano di elastene, tutte attillate, oggi c'ho un po' più di panza. Poi erano brutte, non mi piacevano, oggi ho cambiato genere. Che ne faccio di quelle camicie? Allora, i contenitori per gli abiti smessi erano di Mafia Capitale e quindi era come dargli alla mafia. Ancora sono lì arrugginiti, ma nessuno ci mette niente. Potrei portarla alla parrocchia, ma la parrocchia che ci fa con le camicie? Perché è vero che poi fanno delle grandi riffe di beneficenza, le vendono le riffe di beneficenza. Non ho la percezione che il povero, il mendico metta veramente la mia camicia. Quindi ho questo problema, ho troppe camicie, sono troppo ricco in camicie per quello che è la leggerezza che mi darebbe il fatto di avere una camicia nuova. Non comprerò una camicia nuova finché non ho smaltito le vecchie. Intanto però a Gavino, che visto che è una buona forchetta gli piace ingrassare, regalo un libro infame, Grom, storia di un'amicizia, qualche gelato e molti fiori, di Guido Martinetti e Federico Grom, libro sponsor della Grom, così si mangia un po' di gelati o se no si ingrassa anche semplicemente leggendolo. Carmen da Cuneo, buongiorno. 800 24 00 24, datemi la vostra zavorra, vi darò un libraccio infame, ma in fondo forse vale la pena. Carmen. Buongiorno. Sì, desidero un libraccio infame. Allora, premesso che io adoro la mia famiglia, vorrei liberarmi da tutte le feste in cui è pressoché obbligatorio, se non sei fuori, poi abito in una piccola città, in cui passi le giornate in lunghi, eterni, estenuanti pranzi, cene, eccetera, eccetera, eccetera. Vorrei in questa occasione stare da sola. Lei pensi, Pasqua, adesso che incubo? Quanta gente avrà lei da dove sfamare a pranzo, cena? Ma le spiego, pochi, perché i miei la pensano come me. Però ho 2 bisnipotine, quindi ora è obbligo fare la Pasqua in grande. Sì, capisci? Coniglietto di cioccolata, l'ovettino, esatto, di Pasqua, esatto. Con la sorpresa. Per carità, mia madre la pensa come me. La colombina. Vorrei trovare il modo. Sono riuscita un anno a Capodanno a fare finta di essere in un posto e in un altro fare finta di essere in un altro posto. Sono riuscita a passare un Capodanno. Ma lei non può darsi malata di una malattia contagiosa? Favoloso. Si dia malata, una malattia infamante. Potrei darmi malata. Le dica, guarda, ho una gravissima infezione intestinale, non posso poi veramente avere autonomia, quindi nessuno la viene a trovare per paura. È vero, una volta l'ho fatta con un attacco di sinusite, è vero. Sì. Ma è vero, ha ragione. Potrei malattia infettiva. Naturalmente bisogna toccare ferro, corna e via dicendo, perché non porta mai bene, così dicono le nonne. Comunque lei accusa una malattia, è meglio essere finta malata che essere veramente ammalata. Allora le regalo un libro che le sarà molto utile in questa sua solitudine. Guardi, è veramente una rarità, è Mondadori, un librone, costa anche tanti soldi, guardi, costa 10 euro, quindi glielo regalo volentieri. È 50 sfumature di grigio. Quindi con questo si diverte, sta da sola, se lo legge. Non l'avevo ancora letto. Adesso così lo legge e si fa anche una cultura. Grazie Carmen, ci fermiamo un istante, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. JP Morgan Asset Management vi presenta... Melog, cronache meridiane. Consigli per le pulizie di primavera? Regola 1. Chiedete ad un'amica di aiutarvi con le pulizie di primavera nel vostro guardaroba e lo shopping. Un occhio esterno e, speriamo imparziale, vi aiuterà ad essere più obiettive. Regola 2. Considerate ogni capo dell'armadio. E se non vi va più bene o non l'avete indossato almeno negli ultimi 12 mesi, eliminatelo. Se non riuscite a staccarvene, mettetelo da parte in una scatola o in una valigia. Se non lo indossate per altri 12 mesi, decidetevi ad eliminarlo. Regola 3. Il vostro abbigliamento presente nel vostro armadio dovrebbe corrispondere al vostro stile di vita. Così, per esempio, se siete in pensione ma l'armadio guardaroba è ancora pieno di completi stile business, è il momento di liberarvene e sostituirli con degli abiti che potete indossare tutti i giorni per le vostre attività quotidiane. Regola 4. Nel fare le pulizie di primavera, compilate la lista della spesa, proprio come quando andate al supermercato, in modo da ricordare tutto quello che vi serve ed evitare di compiere acquisti superflui o doppi. È terrificante, se io applicassi questa regola ai miei armadi guardaroba, io roba penso non metterò da almeno 5-6 anni, ma forse anche più, 7 anni. E mi dispiace, tutta roba bellissima, nuova, di marca. C'era un periodo che mi piaceva vestire fighetto, però adesso oggi lo sarei fatto. Vado a casa e impacchetto tutto e butto via tutto. Fantastico, quando tornerà la famiglia troverà gli armadi vuoti, perlomeno quello che è la mia parte. Tanto ormai metto sempre le stesse cose, metto riscoperto i jeans dopo 10 anni che non li mettevo più, fantastici, non si sporcano mai, sono sempre uguali, uno non deve abbinarci nulla, sono una cosa perfetta. Sì, è vero, anche io avevo degli abiti business, chissà che ne faccio più, ormai non ho più nessun business. Mi scrivono degli ascoltatori: allora caro Gianluca, vorrei liberarmi dalla zavorra della depressione che mi opprime da circa 2 anni. Dottore di ricerca, avvocato, musicista, nessuno ha bisogno di me. Non riesco a far nulla. Ovviamente non mi libero di nulla, ma almeno ti saluto esprimendo la mia simpatia. Lo so, la depressione, se è intesa nel senso di malattia, non sono io che posso dare soluzioni. Si rivolga a chi di questo si occupa professionalmente. Se è semplicemente un po' così, di compiacersi della sfiga che nessuno ti cerca, nessuno ti vuole, è l'occasione buona. Butta via tutti gli abiti, rivestiti di nuovo, rimpannucciati e rimettiti nel circolo. Carlo è uno studente universitario fuori corso da 10 anni. Vorrei tanto togliermi questa zavorra dell'università. Caro, fuori corso da 10 anni, ti consiglio di rinunciare. Sei in quella sorta di loop per cui uno passa la vita con la tesi di laurea già scritta nel computer, con gli ultimi esami da dare, non ti laureerai mai più. Lascia perdere, fa un altro mestiere. Il mondo può fare a meno anche di te, laureato. Gabriele da Roma, buongiorno. Buongiorno. La sua zavorra. Ah sì, sono sì, voglio buttare via tutte le razionalità e sostituire con emozioni, con la spontaneità. No, lo traduca in qualcosa di meno astratto. Ma io ho analfabeta fino a 20 anni, quindi spero di non essere troppo... Analfabeta, nel senso non sapeva leggere e scrivere? No, i miei sono tutti analfabeti in Irlanda. Purtroppo sono dell'Irlanda e purtroppo sono cattolico, però comunque... fa sempre in tempo a cambiare idea. Certo, isolatio... Cioè non è che si apre il cielo e esce fuori il fulmine, la fulmine. No, infatti. No, dico, perché se... Pensa ai talk show e tutta la borghesia si parla dei problemi. Ma ha bevuto questa mattina, visto che è irlandese? Ha bevuto una bella birra? No. Domando, perché? Sì, no, io mi piace il vino, Le piace il vino, quindi in questo vede qualcosa è abbiurato. Però no, questa è una cosa che ho accumulato negli anni, ecco. Ma lei cosa vorrebbe? Concretizzi l'oggetto da buttare dalla finestra, così ci capiamo meglio. Sì, come fossi. Lo allucini, cosa vede? È astratto, deve allucinare un oggetto, una persona, qualcosa che buttando alla finestra si sente meglio. Sì, è la televisione. La televisione, prendala, sì. Butta alla finestra e si sente meglio. Certo. Stia attento che sotto non passi nessuno. Oddio, cambia sì. Poco perché se la tiene spenta non le dà fastidio. Cerca qualcosa di più invasivo, perché il televisore, anche quella è una strada, butto via il televisore, basta che ma non lo guardi. Sì, ma comunque tutto è una... siamo nell'Ottocento, meccanicista, ecco, quindi parliamo, cioè siamo troppo... no, e quindi non laghiamo, non siamo sulla difesa, cioè... Ma perché parla a plurale? Lei a chi altro parla oltre che per lei? Siamo, dice, parli per guarda, sé. Ma guarda... Se quando incontro il mondo, io pensavo che gli universitari erano delle persone veramente liberi, adesso mi rendo conto che non... Ma ha avuto una delusione, per questo è così addolorato. Ma molta delusione. Mi rappresenti l'oggetto, la causa della sua delusione? Uomo o donna? No, né uomo né donna, ma come posso dire... No, in genere il mondo non evolve, siamo bambini. Vabbè, questo è un suo problema personale, esca fuori, io butterei, forse, provi a fare un salto lei, magari sente più leggero, non lo so che dirle, non è un'istigazione. No, non è un'istigazione, perché ha enumerato tutta una serie di categorie astratte, non ha detto, io ho molte cose... delle quali liberandomi mi sentirei più leggero, cose, persone, situazioni, oggetti. Ho cominciato dalle mie camicie, sto già pensando alle mie giacche, ai miei cappotti, poi penso all'armadio stesso, poi forse anche alla casa, sarebbe il caso che forse potrei cambiarlo, averne un altro, pensare stare senza casa, vedi, ci sono delle cose concrete. Lei mi enumera soltanto cose astratte, sì, però, e collettive. Sì, vabbè, però lei è l'unica in questi anni che sto in Italia che è sa la differenza tra ironia e sarcasmo, ma come posso dire, il discorso è questo, per un programma radio o televisivo forse serve di parlare dei sintomi, che questo è il problema, però io sto parlando più del problema che quando... Ho capito, quando uno ha imparato i cinque sensi, penso che si è molto ancorato nella realtà. Lo studio... Sì, vabbè, Gabriele, la sta facendo troppo lunga, scusa. Le regalo un libro, Gloria agli eroi del mondo di sogno, di Giancarlo Di Viano d'Arcangelo. Un libro sul gioco del calcio che sicuramente le ridarà delle categorie concrete con le quali confrontarsi piuttosto che sentirsi una spugna che assorbe il malessere dell'umanità. E quindi se lei se l'assorbe tutto sarà sempre più pesante. 800 24 00 24, Simona da Ferrara. Vediamo che se riusciamo a dare qualcosa di più. Vada al pratico, Simona, se possibile. Ah, praticissima. Io ho conservato gli SMS circa 20.000 di una storia d'amore durata 15 anni, bellissima. Cioè lei riversava volta per volta, salvava gli SMS in un file? No, facevo di più, li trascrivevo. Beh, ma si fa copia e incolla comunque, si fa prima. Insomma, quando questa storia è cominciata non c'erano tante finestre. Ah, ancora i telefoni arcaici. Sì. Esatto. E poi ho mantenuto l'abitudine, conservato appunto tutti, trascrivendoli, e quindi si sono accumulati quadernoni. Vabbè, ma è come tenere un cadavere in soffitta, la stessa cosa. Bravo, bravo. Ecco, e cosa ci fa lei? Se lo va a rivedere ogni tanto questo cadavere? Ma a volte mi capita, perché non era una storia d'amore comune. Tutti ci illudiamo che le nostre storie d'amore siano uniche, in realtà sono tutte uguali, purtroppo. Ha ragione. È un modulo irripetibile, sempre lo stesso. Naturalmente per me è stata unica e comunque una relazione molto colta, di cui posso ricordare tante cose, come posso anche andarle a rivedere come un'enciclopedia. Ma perché è finita? È finita perché era ora che finisse. Era troppo colta, quindi. No, insomma, c'erano diversi problemi. Quale? Uno? Di età. Era troppo vecchio per lei? No, a me piaceva il fatto che fosse più vecchio, però. Vabbè, dopo un po' sa, si putre... l'uomo si forse diventa ero io troppo piccolo. Eh no, l'odore di putrefazione poi diventa fastidioso dopo un certo. No, assolutamente, era profumatissimo. Beh, uno si copre lì con degli unguenti, con dei balsami, anche no, le mummie. No. Vabbè, adesso è finita la... È vivo ancora il personaggio? Sì, certo, certo. Ma è in grado ancora di digitare SMS oppure non più? Assolutamente. È la persona più intelligente, più colta che io conosca tuttora. Beh, però noiosissimo. Da un punto di vista pratico e concreto, che ci faceva? Ci ho fatto parecchio. Ci ha fatto parecchio. È tutto scritto in quegli SMS? È tutto scritto, è quello il problema. Che da una parte vorrei buttarli via, d'altra parte dico no, perché... Se ho bisogno anche solo di un'informazione, ce li ho lì, ho tutto lì. Beh, quella è un'enciclopedia del passato, ma lei riesce a vivere una vita nel presente o c'ha questa zavorra di SMS del vecchietto che le scriveva ho qui pronto il mio belisco di carne, queste cose romantiche si dicono e finiva lì? No, ma perché? Non lo è so. Così trash la faccenda. No, ho detto una figura poetica io. No, non è così. Vabbè, comunque, questo la fa vivere felice? Se la fa vivere felice, stenga gli SMS. Che vuol dire? C'è gente che va a portare i fiori ai loro morti, è il momento più bello della giornata. Ma il problema è più concreto, nel senso che se io dovessi morire domani e rimanesse tutta questa storia, della quale sono molto gelosa, mi darebbe fastidio che venisse letta da qualcun altro. La metta in un file criptato, senza dare la password a nessuno, e nessuno la vedrà. Ci vuole un lavoro enorme. Ma che lavoro enorme? Una cosa... 20.000 SMS. Beh, lei ne fa un file Word, lo mette un file criptato, lo lascia lì chiuso. Se lo apre lei soltanto, quando lei muore, nessuno lo apre più. E il mondo non saprà. Le faccio ultimo consiglio. Ma è una cosa semplice, lo potrà dire anche il signore che vende i computer sotto casa. Solo magari lui le fa pagare 80 euro per farglielo. E gliel'ho detto così gratis. No, ripeto, dovrei trascriverli di nuovo. Ma perché scritti a mano? Li acquisisca con uno scanner, ne faccia un PDF, che devo dire, sempre fa prima. Sa che è una bella idea anche questa. Beh, non è che ci vuole aver studiato informatica. Allora, le regalo, regalo a questa signora amorevolmente in un secolo passato e per questa ragione così ancorata un amore romantico per un signore che probabilmente in questo momento sta lì pensando al suo post mortem, di Liati Pisani, Il diario della signora, mistero di una strage dimenticata tra passato e presente, un giallo storico di grande qualità che spero fantastico, che le porti fortuna per il suo futuro amore, che se non si sbriga a buttare via quello vecchio non arriverà mai. Alla prossima. Grazie, cioè tra un istante. Grazie. Ci sentiamo dopo la pausa. Melog, cronache meridiane. Di quali oggetti potete fare a meno? Dell'automobile, dell'orologio, del tapirulan e dell'attrezzatura per fare gli addominali in casa mai utilizzati, della stampante, della stanza d'ingresso nelle case, della penna stilografica e della carta da lettere regalate per la laurea, della grattugia, dello spremi agrumi e del pelapatate elettrici, del cappello, della tessera fedeltà del supermercato e del benzinaio, dei souvenir, delle sigarette ma anche dei sigari e della pipa, dei vestiti alla moda, dei quadri incorniciati appesi alle pareti, dei volumi delle pagine bianche e gialle, di riviste e libri, dell'impianto hi-fi e della collezione di CD, di ammennicoli, pupazzi, sculturine, portafortuna e tutti gli oggetti d'arredamento inutili. 800240024, oggi è la giornata delle pulizie di Pasqua, ci liberiamo delle zavorre, lo farò anch'io, ma non avrei mai immaginato che oltre che essere interessati ai miei freschi pensieri siete anche interessati ai miei vestimenti leggeri. Qua c'è una fila di persone che vogliono le mie camicie, vogliono sapere che taglia sono. Boh, che taglia saranno? 40, boh, non so, 28 sarà di collo più o meno, mi sembra, non so, potrei dire una stupidaggine, ma che ci fate? Sì, saranno una trentina di camicie, ho ritrovato anche la camicia rossa della famosa Notte della Passione, la comperai a Duty Free dell'aeroporto, perché allora venni in aereo, mi ricordo, a Milano, è una camicia rossa di marca che ho messo una volta nella vita, forse potrei farne una asta, potrei mettere all'asta e raccogliere fondi per il mio film sull'autismo, non lo so, non so se ve le regalo, perché adesso che so che hanno un valore, il mio sudaticcio rimasto residuo in quelle camicie di bucato probabilmente ha un valore per qualcuno. Anselmo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Cos'è che lei vorrebbe buttare? Ma io non riesco a buttare delle foto, io non mi affeziono agli oggetti, mi affeziono alle persone, alle relazioni che ho avuto. Ma foto stampate o foto digitali? No, foto digitali. Vabbè, sta presto, si cancella. Sì, ho questi file chiusi e a volte, come diceva la signora prima, non li lascio lì, non li tocco, però non riesco a cancellarli e ogni tanto poi ci finisco dentro. Ma perché ovviamente non li trasferisce in una memoria fisica, così almeno è un oggetto, poi se vuole lo seppellisce, lo mette in una capsula del tempo, lo mette nel cavo di una banca, se li toglie comunque dal computer, così non c'è la tentazione di andarli a vedere. Ma perché penso che forse perderei qualcosa, perché in quelle foto risento tutte le sensazioni, rivivo quello che cioè ho le vissuto. Foto dei precedenti amori, degli amori passati. Sì, esatto. Scusi, non voglio entrare nella sua sfera intima privata, ma quanto pesa sta roba? Quant'è? Sì, no, pesa, diciamo è quella parte scura, un po' di rimpianto. Cioè avrà un giga di amori passati almeno, un gigabyte di amori passati, sì, o più. Sì. Un buon gigabyte, quindi si parla di 300-200 foto forse per donna, e parliamo di 4-5 donne, quindi sì. Ah, beh, alla fine foto. Sono 5 donne, pensavo 400 donne. 5 no, donne. Sono importanti. Ma allora, sì. Fermo un attimo, sono le 5 donne nella sua vita, non è che c'ha un archivio sì. da Don Giovanni, come pensavo no, io. No, ma infatti. No, sono gli amori della sua vita, sono. Sì. Ah, ecco, quelle che ho amato, certo, quelle con cui che ho sofferto. Sono i suoi amori decomposti che lei conserva e guarda e osserva. Decomposti. Putridi proprio assolutamente. Anche di, poi queste persone non le vedo più. È di Baudelaire la frase, non è la mia. Sì. Che dice: ho conservato la forma e l'essenza divina e i miei amori decomposti. Però lo dice guardando la carogna di un cane con tutti i vermi che riusciranno dalle budella, non guardando un file nel suo computer. Beh, è calzante, però, perché comunque quello che suscita poi è quello. Se pensi che adesso se la scopa un altro, se pensi che adesso ho un figlio con un altro. Vabbè, saranno fatti loro, non stanno più con lei, fanno quel che vogliono. No. No. Quindi lei diciamo è esattamente l'osservazione che fa il poeta simbolista. Come sì, come il sì. poeta simbolista passa, vede la carogna di un cane e dice: guarda, vede tutte le viscere, dice: dite al verme che vi mangerà di baci che ho conservato la forma e l'essenza divina dei miei amori decomposti. Lei guarda ogni giorno probabilmente il verme che è rappresentato dal virus che sta dentro il suo computer e dice: guarda, ogni giorno quando penserai al verme che ti mangerà di baci, questa è la forma e l'essenza divina. Lei è molto certo. poetico, quindi merita un bel libro. Eccolo qua, ce l'ho, un libro adatto per lei, di Alè Asfandiari, La mia casa, la mia prigione, la mia patria, la voce di una donna dall'Iran in rivolta. Così vede che ci sono anche altre donne che magari hanno altri problemini per le mani. Direi che è perfetto. Perfetto. Giovanni D'Evrea, buongiorno. Buongiorno. Sì. Che volevo sapere cosa buttavo via dalla finestra. Che butta lei? I figli, tutti e tre. Quanto sono grandi? Uno c'ha 43 anni, l'altro sui 40 e l'altro 33. Quanto pesa ognuno più o meno, occhio e croce? Pesano 70-80 kg. Ma da solo ce la fa? Ci vuole un aiuto? Ci andrà anche un aiuto. No, ma è il fatto che voglio buttare i figli dalla finestra, perché c'è 69 anni e sono delle sanguisughe. Ce l'ha ancora tutti e tre dentro casa, anche il cinquantenne? Il quasi 50. Tutti in casa, perché è separato, è in casa. Tutti in casa con lei. E lei vorrebbe buttare la finestra, mi sembra. E io sono pensionato. Mia moglie, poverina, non ha versato tutti i contributi nella pensione. Non quindi fate la fame, perché questi tre giugioloni vi stanno ancora dentro casa. Sì, e gli ho detto: cercate lavoro all'estero, muovetevi, datevi da fare, niente da fare. Non se ne vanno. E niente, li deve buttare dalla finestra. Pian piano, provi con l'inganno, dice: affacciati, guarda che bel tramonto, affacciati sì, ancora sì. di più. Quando si sbilancia il capoccione, da una spinta cade giù. Allora, le regalo un libro. Grazie. Le regalo un libro che è un pippone bestiale. È Sulle strade di Don Lorenzo Milani. Eraldo Affinati, l'uomo del futuro. Lo so, non c'ho di meglio, si becchi questo. No, in bocca va al lupo. Bene, va bene. Grazie, sì, Don grazie. Milani, i ragazzi, gli piacevano in fondo, una cosa così. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno, io sull'onda dell'ascoltatore. È l'ultimo, svelto, 20 secondi, sì, cosa butta? Mi voglio liberare del pranzo del Pasqua dei suoceri, che nel corso degli anni da Pito sono diventati. Sì, però, guardate, vi dico una cosa, io mi fate un po' rabbia. Ma che ci vuole? Dice: non ci va, dica alla moglie, non sì. ci vado, fine. Sì, sì. Se ne va di casa, meglio, si è liberato anche della moglie, qual è il problema? Ma infatti quello è un lavorone non lo farà mai, non lo farà mai, non lo farà mai, non avrà il coraggio. Non avrà il coraggio di dire a quei vecchi rompicoglioni: non vengo questo giorno a mangiare a casa vostra, anche perché mi fa schifo quello che fate. Immagino robaccia putrefatta fatta da anziani che ormai non distinguono più il sale dallo zucchero. Allora, lei di Waris di Rai, Fiore del deserto, storia di una donna. Se lo legga, perché così se rinuncia alla moglie avrà qualche alternativa. Buona Pasqua a tutti.